Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che si muovono tra Roma e Bruxelles, o Roma, Bruxelles e Francoforte. Perché? Perché oggi c'è stata una risoluzione approvata a livello politico sull'invito al governo Monti ad andare avanti, ma anche ad allargare, se così possiamo dire, il raggio d'azione. C'è nella risoluzione, infatti, un invito esplicito a chiedere che la Banca Centrale Europea venga trasformata in una banca che diventa prestatrice in ultima istanza, come tutte le banche centrali al mondo, cosa che invece la BCE non può fare. E poi c'è nel DEF e anche in questa risoluzione l'ipotesi di arrivare a una riduzione fiscale attraverso gli introiti della lotta all'evasione, da un lato, e la consapevolezza che comunque, da quello che capiamo, ne parleremo più avanti, sta, diciamo così, permeando l'intero governo, la consapevolezza, dicevo, che ulteriore correzione dei conti pubblici non potranno più essere fatte con un aumento delle tasse. E vorrei anche vedere, aggiungo io, visto la montare di maggiori tasse presenti nelle manovre del governo Monti, ma dovrà essere fatta riducendo la spesa pubblica. E lì c'è molta attesa per il ministro Patroni Griffi, ma anche e soprattutto per l'esito della benedetta spending review, revisione della spesa, che sta operando il ministro Giarda. Su questo abbiamo ricevuto molte email. Dico una cosa brevemente: la migliore revisione della spesa non è quella, come ci ha spiegato chi la fa come consulenza per il governo britannico, è un gruppo italiano, si chiama Bravo Solution. Beh, se ricordate quell'intervista, ricorderete che il messaggio è stato: la migliore visione della spesa non è quella che fa dei tagli impressionanti tutti in una volta eclatanti, è quella che rivede, con quello che gli inglesi chiamano fine tuning, con una revisione punto per punto, minuziosa, dettagliata, e poi mantiene questa cosa, perché altrimenti tu tagli la spesa e dopo 10 anni, come puntualmente è avvenuto in Italia, la spesa pubblica torna ai livelli precedenti, mentre se tu hai dei meccanismi che poi ti permettono di mantenere la spesa a quei livelli, la revisione sarà meno eclatante, sarà meno ideologica, ma probabilmente più efficace. In questo paese siamo un po' abituati a essere poco pragmatici e molto molto ideologici su queste cose. Parleremo anche dell'andamento dei mercati, ovviamente, adesso lo dico, ma di quello che è il dato sulle pensioni, un dato obiettivamente che fa impressione, perché se da un lato ci sono praticamente quasi metà dei pensionati che guadagnano meno di 1000 euro al mese, un terzo però ha meno di 65 anni. Parleremo anche di quello che succede in Europa. Non c'è solo Roma, infatti. Oggi intervento del governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi a Francoforte, e incontro Monti Van Rompuy, con l'ipotesi di fondo, ieri molto e oggi anche molto presente sui giornali, di questo asse Roma-Berlino. In realtà è Berlino che sente una certa aria di isolamento, è crollato l'alleato più forte olandese, la Francia probabilmente, comunque, anche se dovesse vincere Sarkozy, sarà un Sarkozy diverso nei confronti della Germania, perché gli sta costando molto a livello elettorale essersi schiacciato sulle posizioni della Merkel. E insomma, la Germania ha bisogno di trovare un alleato, e inizia a trapelare anche a Berlino un'idea che bisognerà pensare anche a una fase 2. Attenzione a non confondere, ma ne parleremo tra poco, l'ipotesi di obbligazioni, cioè di titoli europei per fare opere pubbliche, finanziare appunto le grandi reti infrastrutturali, per esempio, con gli eurobond, che sono un'altra cosa. L'eurobond, secondo la definizione iniziale, è semplicemente l'emissione di debito. Invece che ogni paese mette il suo debito, cioè cerca finanziatori per il suo debito, li si emette a livello europeo. A uno viene chiesto di finanziare complessivamente una parte del debito europeo, ma sono due cose molto diverse. Nel primo caso si chiede un prestito per fare opere pubbliche e lo si chiede a livello europeo. Nel secondo caso si chiede semplicemente che una parte del debito dei singoli paesi dell'area euro venga finanziato a livello europeo, quindi con un euro bond, con un euro botto BTP e non con i singoli bot o BTP nazionali. Come va lo spread? Va ancora male, nel senso che è sotto 400 ma sempre a 395 punti. Non ci stancheremo mai di dire che questo livello di differenza tra quanto costa a noi indebitarci e quanto non costa invece la Germania è un livello ancora non sufficiente. Da 250 punti, 260 punti, sicuramente sotto i 300 punti si può iniziare a ragionare a un livello di sufficienza. Come vanno le borse? Deboli oggi, non in maniera drammatica, meno 0,80% Milano, meno 0,40% Parigi, più 0,24% Francoforte, così come più 0,24% il rialzo di Londra, e l'America più 0,30%, euro su dollaro a 1,32,30 per quello che riguarda il rapporto di cambio. Tra i titoli segnaliamo Fiat, parleremo anche di auto perché ottimi dati di Chrysler, si attendono i dati anche di Fiat, o meglio si attendevano i dati di Fiat perché poi i dati di Fiat sono usciti. La reazione della borsa è netta, meno 5,50%, l'utile netto nel trimestre di Fiat va a 379 milioni, confermati, tra l'altro i risultati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione a Detroit. Confermati gli obiettivi per il 2012, l'indebitamento netto è a 5 miliardi e 8, è aumentato, e i ricavi con Chrysler vanno a 20 miliardi, ma in sostanza da quello che si capisce la trazione e il motore del gruppo Fiat Chrysler è tutto un motore americano in questo momento, cioè da lì arrivano i dati migliori, oltre 1 milione di consegne nel mondo per quello che riguarda il gruppo Fiat Chrysler, male invece l'andamento di Fiat Auto. Diasorin perde il 4,77%, Finmeccanica il 4,50% come Buzzi Unicem e la Popolare Emilia Romagna, il 3,40% lo perde UbiBanca, il 3,30% in Pregilo, il 3% A2A, il 2,80% lo perde Unicredit e anche il Monte dei Paschi e la Popolare di Milano, il 2,60% il calo di Telecom Italia e di Mediolanum, il 2,5% quello di Exor e del Banco Popolare, media 7-1,80. Chi guadagna? Sempre Salvatore Ferragamo, più 4,55%. È mesi che raccontiamo come il lusso, anche italiano, non conosca crisi. Guardate cosa è capitato alla quotazione in borsa di Brunello Cucinelli, no? Richieste così forti che hanno dovuto interrompere roadshow. E come va anche Salvatore Ferragamo, come va Luxottica, che anche in questi giorni, per esempio oggi, guadagna lo 0,20%. Tutti i gruppi italiani che hanno saputo collocarsi nella fascia alta della moda, ma non solo, e che operano sui mercati esteri, vanno bene, che siano medi, grandi o piccoli ce ne sono pochi, poco cambia. Dicevo, Ferragamo più 4,70, Tenaris più 3,60, l'Automatica più 2,20, Fiat Industrial, quindi camion e trattori più 1,80, Pirelli più 1,40, Eni più 0,50 come ST Microelectronics. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Stabili oro e petrolio. In Argentina nel frattempo il Senato ha votato l'esproprio di Stato del 51% di YPF, che è la compagnia petrolifera argentina. Il 51% era della spagnola Repsol. Ebbene, il governo di Buenos Aires ha deciso un esproprio tout court, su questo c'è anche una forte posizione dell'Unione Europea, e l'ha votato oggi il Senato dopo 15 ore di discussione. In Grecia la recessione si fa sentire sempre più pesantemente. Oggi l'OCSE ha reso noto che l'anno scorso i redditi del paese sono diminuiti del 25%. Ora, quando noi diciamo che è importante punire chi ha sbagliato ma non umiliare, un concetto che in Germania non è chiarissimo a mio avviso, e diciamo esattamente questo, immaginate se in Italia i redditi da lavoro, anche dipendente ma non solo, fossero crollati del 25%, cioè chi guadagnava 1000 euro al mese si trova a guadagnare 750 da un anno all'altro. Ma quel che è peggio che secondo quanto ha ricordato anche il governatore della Banca Centrale Greca, la recessione quest'anno in Grecia toccherà il 5% e una timida ripresa potrebbe arrivare alla fine del 2013, il che significa che anche nel 2013-2014 i redditi dei lavoratori del settore pubblico e privato in Grecia perderanno un altro 20% del loro potere d'acquisto. Arriviamo praticamente alla metà. Quando si dice che per non far uscire la Grecia dall'euro si è scelta la strada di svalutare il costo del lavoro, è esattamente questo. In Argentina invece l'Argentina uscì, diciamo, svalutò il peso, si beccò un crollo del potere d'acquisto però per tutti, ma in questo modo riuscì a recuperare, perché con un peso molto molto basso ripresero le esportazioni argentine. Siccome non si può svalutare l'euro, la scelta di fatto per la Grecia è stata quella di svalutare il costo del lavoro per vedere se si rende più competitivo il paese, con la conseguenza però che questo si va a ripercuotere soprattutto, se non quasi esclusivamente, sui lavoratori, non su chi gode di rendite e altre forme di guadagno. Ci chiedete di dedicare una puntata a Brunello Cucinelli, è venuto nostro ospite 3-4 volte, anche perché è un visionario come altri imprenditori, ha un'idea dell'impresa bellissima. Certo, lo inviteremo, ogni tanto un po' di speranza ci vuole. Tra l'altro domani vi ricordo che vi sarà la giornata che Radio 24 dedica all'iniziativa Disperati Mai, dalla mattina con Oscar Giannino, ma non solo, tantissimi altri programmi, Deborah Rosciani, Nicoletta Carbone, si occuperanno ognuno con il format che gli è proprio del tema della disperazione, della solitudine dei piccoli imprenditori e degli artigiani. Poi Focus Economia dalle 16 domani, non dalle 17 alle 18.30, vi sarà spazio anche per le vostre telefonate all'800 24 00 24. E perché no, potremmo chiamare Cucinelli domani assieme a altri imprenditori che hanno avuto questa capacità di visione, per dare anche un po' di fiducia, un po' così di ottimismo. Veniamo all'Italia. La fiducia nel governo Monti scende sotto quota 50 dopo che viaggiava a 55 punti a marzo. Il gradimento del governo è sceso da 50 a 45, fatto 100 il totale. Il gradimento del premier Monti, il gradimento personale, è sceso dal 55 al 50%, ma la cosa interessante è come è cambiata la classifica del gradimento dei vari ministri. Poco mossa la Cancellieri, ministro dell'Interno, ha perso 2 punti da 55 a 53, poi Corrado Passera da 53 a 50, Andrea Ricciardi da 53 a 49. La cosa impressionante è il crollo che ha avuto nel consenso il ministro welfare Elsa Fornero. A inizio mandato era la prima in classifica quanto a gradimento con il 58%, adesso è l'ultima al 42%. E Elsa Fornero oggi, rispondendo a una domanda al forum del Corriere.it sul mercato del lavoro, ha detto attenzione con l'articolo 18, è importante non metterne a repentaglio l'equilibrio. Io penso che l'equilibrio che è stato raggiunto sull'articolo 18 sia un buon equilibrio. Quindi è vero, c'è un aspetto tecnico che è stato introdotto e che riguardava la possibilità che anche i dipendenti pubblici fossero considerati nel pacchetto. Poi i dipendenti pubblici in base all'articolo 2 ne sono esclusi e verranno invece considerati con un apposito intervento dal ministro Patroni Griffi, ma a parte questo io direi che sulla flessibilità in uscita l'equilibrio raggiunto è un buon equilibrio che io non vorrei fosse messo a repentaglio. Nel frattempo, sugli esodati, il 9 maggio vi sarà l'incontro tra Elsa Fornero e i sindacati. L'Istat però ci fa sapere che quasi metà dei pensionati, cioè 7.600.000 persone, sono i pensionati, 7.600.000 persone sono la metà, ha ricevuto pensioni per un importo medio totale mensile inferiore a 1.000 euro al mese. Per 2 milioni e mezzo di italiani le prestazioni non superano i 500 euro. 500 euro. Quasi la metà delle 23 milioni di prestazioni pensionistiche sono state erogate al nord, il 47,9%, quasi un terzo dei pensionati ha meno di 65 anni. Ma pensate che un terzo ha un'età compresa tra i 40 e i 64 anni, poi c'è il 3,5% che ha meno di 40 anni. E il 70% a questo punto ha invece più di 64 anni. Però a proposito di pensioni, è singolare quanto scopre oggi il settimanale L'Espresso, perché ogni anno noi spendiamo 17 milioni di euro per i cappellani militari. Praticamente si somma i costi delle pensioni, degli stipendi, degli ufficiali, degli uffici centrali, dei preti soldati. Io capisco benissimo l'importanza che vi siano i cappellani militari, ma 17 milioni di euro all'anno. Addirittura il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della CEI, è un pensionato dell'esercito, come ex ordinario militare, cioè vescovo a capo dei sacerdoti al seguito dei soldati. Per lo Stato ha la qualifica di generale di brigata e quindi ha diritto a una pensione fino a 4.000 euro. Il cardinale ha prestato servizio solo per 3 anni, ma è arrivato a compiere 63 anni e ha maturato il diritto a un vitalizio. Tutto nella legge, ci mancherebbe. Però, come diciamo per i politici, come diciamo per i manager, anche in questo caso, diciamo, è un problema di opportunità, no? Cioè, se lavori 3 anni, avere una pensione fino a 4.000 euro forse un po' troppo, no? La cosa più interessante però è che l'INPDAP non sa dire quanto costino le pensioni dei cappellani militari, quindi proprio navighiamo nel buio. E a proposito della metà degli italiani che hanno una dei pensionati che hanno una pensione sotto i 1.000 euro, addirittura 2 milioni e mezzo sotto i 500 euro, qualche notiziola sulla crisi ce l'abbiamo, preparatevi il Malox. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, qui il merito va ancora una volta a Stella e Rizzo sul Corriere di oggi, privilegi e sprechi. Quando diciamo che non è solo il governo, lo Stato centrale, ma anche le regioni, attenzione. E tra l'altro il governo, devo dire che sulla vicenda delle auto blu ha fatto subito retromarcia, eliminata ogni... avete letto oggi la polemica sulle 400 auto blu che sarebbero state prenotate, colpo di spugna, eliminata. Così come va riconosciuto a governo Monti una maggiore sobrietà, sicuramente rispetto al governo Berlusconi, nell'utilizzo degli aerei di Stato e di altre amenità. Sono crollate del 90% l'uso dei voli per il governo, per i ministri e sottosegretari dei voli di Stato, e questo gli va riconosciuto. Sentite un po' le folli spese delle regioni, poi si dice che non si riesce a tagliare in questo paese. Allora, la regione Sicilia, che come sempre ci regala delle chicche, spenderà 454 mila euro per la Zelkova, che non è una tennista famosa, no. È una rara pianta che la Regione Sicilia vuole tutelare assumendo addirittura un consulente da 150.000 euro. Se qualcuno vuole fare consulente per la Zelkova, che è una pianta, non fatevi illusioni, ci scriva. E poi ancora la decisione di salvare il CEFOP, uno dei carrozzoni della formazione professionale, costa dai 250 ai 400.000 euro l'anno, impiegando 8.000 formatori. Si vuole creare una bad company su cui scaricare 82 milioni di debiti per dare vita a una nuova società da sfamare con altri 30 milioni di euro. Poi ci sono altre amenità, nel senso c'è una delibera che autorizza i comuni ad assumere 22.000 precari, c'è la storia di Zorro, il vecchio cavallo donato dal governatore Lombardo a Villa delle Ginestre per l'ipoterapia e messo in pensione a 2.335 euro al mese senza che ancora sia stata comprata per i malati manco la sella. Questa di Zorro, ragazzi, merita l'applauso al governatore della regione Sicilia Lombardo. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Sì, poi ce ne sono anche altre, tra cui l'utilizzo dei fondi FAS, 269 milioni di fondi che servono, che l'Europa dà per le aree depresse, per tappare una parte della voragine sanitaria della regione Sicilia. Ma come si fa ad andare avanti così, governatore Lombardo? E poi, oltre lo stretto, perché non c'è solo la regione Sicilia, Pietro Giamborino, dopo una sola legislatura da consigliere regionale, è andato in pensione a 55 anni, rinunciando al 5% del vitalizio. Il presidente dell'Assemblea regionale, Francesco Talarico, 185 mila euro ha stanziato per le spese di rappresentanza, oltre il doppio di quanto costò ai tedeschi, sotto quella voce il presidente della Repubblica Köhler. Ma l'applauso finale, prima di andare poi sulla pubblicità e il meteo, lo diamo ancora una volta alla famiglia Ligresti. Perché? Perché oggi si è scoperto che ammontano a 8 milioni di euro i compensi percepiti nel 2011, anno in cui la fondiaria SAI ha chiuso con 1 miliardo e 400 milioni di perdite. Eppure i tre fratelli Ligresti hanno avuto quasi 8 milioni di euro di compensi. Giulia Ligresti 3 milioni di euro, di cui 2 milioni e 100 per la presidenza dell'holding. Ionella Ligresti 2 milioni e 6 per la presidenza di fondiaria SAI. Paolo Ligresti 1 milione e 7 più 500 mila euro in franchi svizzeri. L'applauso arriva perché nel frattempo Ionella Ligresti con fermezza ha detto: non lascerò la presidenza di fondiaria SAI. E un applauso va al coraggio. Meteo che meglio, pubblicità e poi parliamo anche di Europa oltre che di borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è chi dice, insomma, fate disinformazione sulle auto blu. No, guardi, abbiamo chiarito che si trattava anche di un modo per bloccare il prezzo. Il problema vero è che con l'aria che c'è e che tira, 400 auto blu non si poteva sentire. E a chi scrive giornalisti cialtroni, a me sembra, io spesso non ho, diciamo, motivo per difendere la mia categoria, però in questo caso, se non avessero scritto i miei colleghi oggi, probabilmente il governo questa cosa sfuggiva. Infatti la decisione è stata ritirata anche per le polemiche che aveva suscitato prima sui giornali e poi su internet. Quindi ogni tanto magari anche la stampa serve. Dicevo, questa è la situazione prima di arrivare alla borsa. Parliamo di che cosa è successo oggi tra Francoforte e Bruxelles, ossia tra le dichiarazioni di Mario Draghi da un lato e l'incontro Monti Van Rompuy dall'altro. Asse o non asse, dicevo ieri, parlare di asse Roma-Berlino il 25 aprile non era il massimo, perché ce n'era già un asse, ma insomma mi sembra che si stia un po' fantasticando sull'asse, sulla Merkel che cercherebbe l'asse con Mario Monti. Quello che invece sembra più realistico è che la Germania abbia colto finalmente il segnale che se avanti così si ritrova da sola a difendere se stessa e il suo euro marco, il suo marco euro. Io vorrei far risentire Mario Draghi di ieri, oggi ha parlato a Francoforte, che un'indicazione è chiarissima, visto che ormai è la BCE a dettare la nostra politica economica, ancora dagli ultimi mesi del governo Berlusconi. Sentiamo il ministro dell'economia in pectore Mario Draghi, che cosa pensa del risanamento economico fatto di sole tasse.

e che quindi a livello di attività europee, sempre in questi 3 mesi, ha perso 170 milioni a livello di risultato operativo. Naturalmente questo lascia fuori i marchi Ferrari e Maserati, che sono tenuti anche contabilmente a parte. Sì, insomma, la parte buona, la good company, mi dispiace dirlo, ma è la Chrysler in questo momento, anche perché l'indebitamento netto è a 5 miliardi e 8 complessivamente, con Chrysler oltre 1 milione di consigli nel mondo. Il consiglio di amministrazione si è tenuto a Detroit. Si è tenuto a Detroit, così come quello di Fiat Industrial, così come quello di CNH, eccetera. Diciamo che, volendo fare una battuta, si potrebbe dire che almeno in questo periodo il gruppo Fiat Chrysler è diventato Chrysler Fiat. Avevamo avuto un leggerissimo sospetto in questi ultimi mesi. Anche gli investimenti, se guardiamo sempre i numeri di 3 mesi, di 1,6 miliardi di investimenti, 1 miliardo è andato a Chrysler, 600 milioni al resto del gruppo tutto compreso. Ci sono dei segnali, diciamo, che si potrebbero definire non numerici. Un esempio: al Salone di Pechino, che è in corso in questi giorni, a cui sono stato nei giorni scorsi, lo stand della Fiat che lancia la nuova Viaggio è grande la metà di quello di Chrysler e Jeep, che lanciano in sostanza due piccoli restyling per il mercato cinese di veicoli già esistenti. Senti, com'è questa Fiat che servirà al mercato cinese, che è presa dalla Dodge, se ho letto bene, se non vorrei dire una bestialità? La Fiat Viaggio è un'auto che molto simile, quasi uguale alla Dodge Dart, diciamo che è stato rielaborato un pochettino lo stile, per esempio il muso, ed è stato fatto dal centro stile Fiat a Torino. Comunque diciamo che al 95%, credo fosse anche di più, è una Dodge Dart. Diciamo che è anche un tipo di vettura a 3 volumi, cioè con la coda un po' sporgente, che è esattamente il tipo di vettura adatta al mercato cinese. Le vetture a 2 volumi, che sono più adatte all'Europa, in Cina non si vendono molto. Comunque, utili netti di Chrysler più che quadruplicati nei primi 3 mesi del 2012, vendite americane che sono schizzate più 40% a 470 milioni di dollari. Ti faccio una domanda ai scarsi 2 minuti. Com'è che la Chrysler vende, va bene in America, e la Fiat non vende, va male in Italia? Beh, diciamo che sarebbe molto lungo. Per dirla semplicemente, Chrysler sta cavalcando, appunto, come ho detto, una ripresa del mercato americano. Ha aumentato però le quote di mercato grazie al lancio di alcuni prodotti che hanno avuto abbastanza successo, come la Jeep Grand Cherokee o la Chrysler 200 nel settore delle berline. In Europa la Fiat sta da alcuni anni perdendo quote di mercato, e indubbiamente questo è legato anche al fatto che Marchionne, lui lo ha detto più volte, ha più volte ritardato gli investimenti in nuovi prodotti. Pensiamo alla nuova Punto, che non arriverà prima di un paio d'anni, dicendo che non vuole lanciare nuovi prodotti in un mercato che va male, e dicendo che i concorrenti che l'hanno fatto, come la Peugeot, la Ford, eccetera, stanno andando male. Di fatto va male, come abbiamo visto oggi, dal punto di vista dei profitti, anche la Fiat. Da un punto di vista finanziario è comprensibile che uno voglia investire nei mercati che vanno meglio, o come in Cina, nei mercati che hanno più potenzialità di crescita. È chiaro però che così facendo le possibilità di resistere sul mercato europeo estremamente competitivo nel lungo periodo si fanno più difficili. Per carità, è una scelta dire in un momento i soldi in un mercato che è stagnante ed è fermo, però ci sono anche altre scelte. Volkswagen, che ha già fatto scalpore per il mega bonus dato a tutti i dipendenti, oltre 1.000 euro, vado a memoria, però no, sono più di 7.000 euro. 7.000 euro, erano 1.000 euro che avevamo fatto il calcolo ogni 2 mesi. Insomma. Comunque, dicevo, oggi Volkswagen ha pubblicato i dati. Insomma, nel primo trimestre il fatturato cresce del 26% e le vendite più 11%. Quindi, Volkswagen ha ovviamente dimensioni molto diverse. No, capito, è solo per dire che alcuni in Europa riescono ancora a vendere. Volkswagen ha resistito molto bene grazie in parte al fatto che il mercato tedesco va meglio di quello italiano, dove Fiat è più forte, e poi ha una solidità. Volkswagen ha una forza finanziaria che le ha permesso anche in questi anni di continuare a investire notevolmente anche sul mercato europeo, sicuramente. Allora, grazie Andrea Malan. Fiat nel frattempo oggi il peggior titolo in borsa, meno 5,13%. Ne parliamo dopo il GR degli altri titoli di borsa. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare il resto della borsa, visto che il caso di oggi era indubbiamente Fiat Auto, meno 5,13%, mentre Fiat intesa come Fiat Industrial, camion e trattori, più 1,70%. 4,5%. L'onore Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Tenaris più 4,5% e Salvatore Ferragamo più 4,11%. Sì, esatto. Anche l'automatica più 2,40%, così facciamo sì, il tris. Ci sono un po' di casi positivi che sono andati in controtendenza con Piazza Affari. Tenaris è andata su, visto che oggi è stata pubblicata la trimestrale, è buona, l'utile netto è salito a 453 milioni di dollari rispetto ai 324 dello stesso periodo 2011. Per quanto riguarda Salvatore Ferragamo ci sono invece motivazioni. Innanzitutto l'attesa per quello che sarà domani il debutto in borsa di Brunello Cucinelli, ma già nei giorni scorsi abbiamo saputo che l'offerta si è conclusa in anticipo, sono già entrati nel capitale sia Benetton con una quota attorno al 2%, c'è molto interesse da parte appunto dei gruppi della moda e quindi domani i presupposti sono assolutamente positivi. E poi appunto è entrato anche Zegna con una quota del 3% sempre nel capitale. In aggiunta ieri in tarda serata PPR, il gruppo francese che controlla anche Gucci Group, ha dato i dati trimestrali. Anche in questo caso si è visto una crescita, soprattutto per quanto riguarda la divisione lusso che è Gucci Group, che controlla appunto Gucci, ma anche Balenciaga, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, molti marchi del mondo della moda e del lusso. In particolare nei primi tre mesi Gucci Group ha visto balzare le vendite del 29% a 1,46 miliardi. Sì, in più oggi si è tenuta anche l'assemblea di Ferragamo, che ha dato il via libera ai conti 2011 che avevano visto salire il fatturato quasi a 1 miliardo e è stata approvata la cedola, insomma tutta una serie di notizie positive che ovviamente ha fatto sì che il titolo sia balzato a 16,7 euro. Allora, questo per quello che riguarda Ferragamo, di Tenaris è la trimestrale e l'automatica diciamo più 2,40%, ripeto, tutti i gruppi del lusso vanno bene non tanto per le vendite in Europa ma per le vendite nei paesi dove la ricchezza si sta creando, quindi i BRIC, Brasile, Russia, India, Cina ma anche Turchia. Ebbene, hanno fatto i francesi a creare due poli enormi. Tu ricordavi Pinot Plantin, c'è anche Louis Vuitton Moët, sì. E quindi loro su questo si sono ben posizionati. Le banche oggi invece sono tutte deboli, se non in calo anche significativo. Penso alla Popolare Emilia Romagna, meno 4,20, Pop Milano, meno 3, Monte dei Paschi, meno 3, Ubibanca, meno 3, Unicredit, meno 2,70, Banco Popolare, meno 2,40%. Esatto, d'altra parte ieri le banche avevano fatto molto bene, quindi oggi si è preso profitto, anche perché ha convinto poco l'asta dei titoli italiani a 6 mesi, sono stati collocati 8,5 miliardi, ma il rendimento è nuovamente salito all'1,77%. Sappiamo che gli istituti di credito hanno i forzieri ricchi di titoli di Stato e ovviamente se i titoli di Stato perdono di valore e aumenta ovviamente il rendimento, questo va a impattare negativamente anche sulla valutazione degli stessi istituti di credito. Tra l'altro va detto che oltre alle banche oggi pesante è anche Finmeccanica, Buzzi Unicem perde 4,46%, Buzzi Unicem, ma Finmeccanica il 4%, qui pesano le inchieste della magistratura? Ma certo, pesa l'incertezza, poi però ricordiamo che ieri il titolo era andato molto bene, quindi anche in questo caso sono scattate le prese di beneficio, soprattutto in un momento in cui si ha poca visibilità sul futuro della società e soprattutto sui vertici della società. I migliori e peggiori, Prelios guadagna il 9,93%, Prelios è l'ex Pirelli Real Estate, la parte immobiliare del gruppo. L'ex parte immobiliare del gruppo Pirelli. Esatto, in questo caso è stato il Sole 24 Ore che questa mattina ha riferito delle indiscrezioni in base alle quali la tedesca Bilfinger sarebbe interessata alla società, in particolare avrebbe fatto un'offerta per il 51% delle attività italiane, per il 10% della SGR e per tutto il pacchetto di asset che la società detiene in Nord Europa. Sempre secondo il Sole di quest'oggi sarebbe già in corso una due diligence, ma sicuramente come sempre avviene l'idea di un'offerta per un'azienda piace sempre alla borsa, ecco perché Prelios è salita quasi del 10%. I peggiori si chiamano Alcatel-Lucent, meno 16,20%, Sintesi, meno 7,31%. Grazie Donora Michele di Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi adesso ci occupiamo, dopo aver affrontato il tema Europa, quindi Francoforte, Bruxelles oggi, del tema Italia, quindi DEF, ma anche quello che è stata la risoluzione della maggioranza approvata dalla Camera. La risoluzione della maggioranza chiede il pareggio di bilancio nel 2013 senza altre manovre, perché le manovre finanziarie adottate nella seconda parte del 2012 dovrebbero consentire di raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero, entrate pari ad uscite per l'anno in corso, e poi abbattere il debito, chiede la maggioranza politica, abbattere il debito con le dismissioni del patrimonio pubblico, un piano straordinario di dismissione del patrimonio pubblico, e poi risorse dalla spending review, cioè dalla revisione della spesa. I soldi che verranno risparmiati devono essere utilizzati per il calo delle tasse. A questo proposito ci ha scritto un ascoltatore riempendoci di insulti, dicendo: ma voi volete ridurre la spesa pubblica, non capite che in questo modo vuol dire licenziare i dipendenti della pubblica amministrazione, poi se queste persone disperate si suicidano ci fate pure l'appello. No, guardi, lei non ha capito nulla, nel senso che, glielo dico con massimo rispetto, perché la spesa pubblica in Italia vale 790 miliardi di euro. Nessuno, perlomeno in questo programma, ha mai chiesto che venissero toccati i 317 miliardi che sono pensioni, stipendi e quant'altro. Si è solo detto che dei 132 miliardi che la pubblica amministrazione italiana spende ogni anno per l'acquisto di beni e servizi, e sappiamo come li spende in alcuni casi, ecco, questi 132 miliardi possono essere, i risparmi possono essere consistenti, anche solo il 10%, che non mi sembra una cosa enorme. Se uno risparmia il 10% in beni e servizi, significano 13 miliardi e mezzo, cioè praticamente una manovra finanziaria di un anno, quasi un punto di PIL, riducendo gli acquisti di beni e servizi come spesa complessiva del 10%. Basterebbe iniziare centralizzando gli acquisti. Se ogni ministero compra la carta, le matite, i fax, i computer con bandi suoi, senza centralizzare le spese, quindi gli acquisti, beh, è chiaro che non si risparmia nulla, no? Certo, in questo modo verrebbero meno tutti gli accordi anche sotto banco, le prebende, le consulenze strane, i favori. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Chiariamo qual è il valore di questa risoluzione della maggioranza, perché uno può sembrare che sia praticamente un'iniziativa del governo, in realtà è un'iniziativa della maggioranza politica che sostiene il governo. Sì, ovviamente questo non è né un decreto operativo né una circolare che deve essere applicata dal governo, è una precisazione di indirizzo politico importante, perché la strana maggioranza, come lui la chiama, del governo Monti ha deciso sotto questo profilo un passo politico di una qualche rilevanza, cioè vincola il governo a seguire un indirizzo generale di fondo sulla manovra di politica economica, che è quella che avete voi sintetizzato prima e che in particolare dice abbassate le tasse con gli introiti che verranno dalla revisione della spesa pubblica e dalla lotta all'evasione, e questo è un punto importante certamente. Sulla lotta all'evasione oggi è intervenuto anche Attilio Befera, l'amato, amatissimo numero uno di Equitalia, e però ha detto, insomma, iniziano ad arrivare i segnali positivi dalla lotta all'evasione. È un po' presto per dirlo, perché siamo ad aprile, dobbiamo aspettare un po' che si consolidino i dati. Comunque i segnali sono positivi e io mi auguro che sia il lavoro che è stato fatto insieme alla Guardia di Finanza sul territorio, sia il nuovo redditometro che presenteremo a brevissimo, invogli chi finora ha pagato poco a pagare il giusto. Ma alla fine di quest'anno ci sarà il famoso tesoretto, quello appunto dal recupero dell'evasione per ridurre le tasse? Perché poi alla fine tutti quanti ci auguriamo questo. Ma guardi, il tesoretto secondo me non esiste, cioè, noi recuperiamo l'evasione, una parte è prevista dai saldi di bilancio e quindi quella è praticamente intoccabile. Se riusciamo a recuperare in più dipenderà, credo, dalla situazione economica del paese e dalla volontà politica, non dall'agenzia. In questo Beffer ha ragione, cosa fare dei soldi? L'avete sentito, la domanda era questa mattina ospite di Belpietro su Canale 5. Insomma, cosa fare di questi soldi che arriveranno in più è una scelta politica. Guido, dopo le informazioni sul traffico, però c'è un'altra cosa che in questa risoluzione approvata oggi dalla maggioranza della Camera mi ha colpito, cioè la richiesta che la Banca Centrale Europea cambi ruolo, cioè diventi anche prestatore di ultima istanza, cioè faccia la Banca Centrale a tutti gli effetti. Dopo il traffico, il tuo commento. Di nuovo in diretta, dicevo, Guido Gentili, questo invito che ha fatto la maggioranza politica a cambiare, a incrementare il ruolo della Banca Centrale Europea, fa il paio, a mio avviso, con alcune dichiarazioni, penso a Silvio Berlusconi 2 giorni fa, ma anche Bersani, Rizzo di Rifondazione Comunista, cioè tutti a chiedere che a un certo momento si possa anche imbarcare un po' di inflazione, ma si inizi a livello europeo a fare politiche per la crescita. Non avevo mai visto un consenso così, diciamo, sì, di quello che una volta questo, si chiamava l'arco costituzionale, no? Sì, questo purtroppo è un consenso troppo facile, per due motivi. Il primo perché trasformare la Banca Centrale Europea in un prestatore di ultima istanza e quindi seguire il modello che già è adottato dalla Federal Reserve americana o dalla Banca Centrale inglese non è un passaggio semplice, direi che al momento, anzi non facciamoci illusioni, perché per fare questo dovremmo passare sul corpo dell'intera Germania, quindi direi che questo resta un interessante auspicio, però diciamo non facciamoci illusioni. Il secondo motivo è che per cui il consenso è facile è che non vorrei che si dicono queste cose per poi dice vabbè è finita la fase 1, quella del rigore, apriamo la fase 2 che è quella del rilancio. Se messa così la cosa non funziona, perché se non si agisce su tutti e due i pedali, e questa è la vera complessità della sfida che attende l'Europa e in particolare l'Italia, non andiamo da alcuna parte, ovviamente. No, la fase 1 non è finita, perché ancora non c'è un taglio nei costi della spesa pubblica significativo, quindi quello lo stiamo ancora aspettando. Giarda! Il nostro appello ormai alla Tarzan verso il ministro Giarda. E due, perché non abbiamo ancora visto una significativa riduzione dei costi della politica, e mi dispiace per loro, ma è così. Tre, perché il rigore deve accompagnarsi alle iniziative per la crescita, non essere alternativo a, non facciamo i furbetti. Esatto, due le cose insieme dobbiamo fare. Allora, lunedì 30 vi sarà probabilmente il Consiglio dei Ministri che analizzerà la spending review, la revisione della spesa. Dalle notizie che tu hai, Guido, come sta andando? Perché io sono d'accordo con quello che il Ministro già ha fatto trapelare, bisogna andare a fare tagli, tantissimi tagli piccoli piuttosto che un grande taglio grande, no? Un unico taglio grande. Però vorremmo avere anche qualche elemento in più. Beh, un taglio grande noi per esempio l'abbiamo già fatto, quella con il Salva Italia, con il discorso delle pensioni, quello è stato fatto un grosso taglio. Adesso, come dicevate voi all'inizio, si tratta di incidere su quella parte di spesa che riguardano, secondo me, gli acquisti. Questo è, diciamo, il nocciolo duro della spesa che va ridotto. Probabilmente anche fare un po' di pulizia in quella che sono anche in quel monte gigantesco che sono le detrazioni fiscali, che sono anche i trasferimenti alle imprese. Certamente lì c'è da rivedere moltissimo. Però vuol dire, è un'operazione complessa e l'aspettiamo da tanto tempo. Vorrei ricordare che ci provò ad impostarlo nel 2006 l'allora ministro Padoa-Schioppa, certo. Fece un'operazione intelligente a quello che era allora il vecchio documento programmatico annuale, e poi restò però lettera morta. E sappiamo quanto è difficile, e anche lo stesso Giarda insomma ha fatto capire di aver lavorato in modo molto isolato perché non gli fornirono nemmeno i dati, quindi insomma è un'operazione complessa. ma indispensabile. Sì, anche perché nel frattempo, e qui vengo alla parte diciamo più difficile da giorni di questa trasmissione, nel frattempo il Paese continua a vivere una situazione di estrema difficoltà che andrà a protrarsi nel 2012. Il tema è chiaramente Disperati Mai, l'iniziativa di Radio 24, che domani conoscerà una giornata riassuntiva, nel senso che quasi tutti i programmi di Radio 24 si occuperanno del tema degli artigiani, dei piccoli commercianti, dei piccoli imprenditori disperati, orgogliosi, ma anche disperati, soli, ma anche rabbiosi. Questo è quello che emerge dalle centinaia di mail che stanno arrivando all'indirizzo disperatimai@radio24.it. E Focus Economia per l'occasione domani sarà in diretta, lo dico come nota di servizio, dalle 16 in poi, non dalle 17, e accetteremo anche le telefonate chiaramente sul tema di testimonianza all'800 24 00 24. Io vorrei, Guido resta con noi, leggere alcune, come sempre a livello emblematico, delle mail che sono arrivate in queste ultime 24 ore. Buongiorno, mi chiamo Stefano, ho 30 anni, lavoro da sempre in azienda come mio padre, non abbiamo più nulla se non debiti, vantiamo crediti per 800.000 euro da parte della provincia da 3 anni. Non siamo mai stati in ritardo con i pagamenti, siamo abituati a pagare un giorno prima piuttosto che un giorno dopo. La mia morte nel cuore ora è vedere mio papà che sta davanti al telefono che non suona mai, vederlo lentamente appassire di giorno in giorno. È troppo, io non reggo, la faccio finita. L'ho pensato tante volte, la scorsa settimana ho fermato la macchina, pignorata, nel bel mezzo del cavalcavia e ho pensato di buttarmici sotto. Ho guardato nel vuoto e non ho avuto paura, anzi ho pensato, sarà la mia liberazione. Non l'ho fatto perché dovevo sbrigare le ultime cose pratiche per non sommare dolore su dolore alla mia compagna e la mia amata, ma ormai vessata, denutrita nell'anima, snaturata famiglia. Sono tornato a casa sempre più convinto, ho sbrigato le pratiche, ho scritto le lettere e poi l'acqua ha divelto la tettoia dei miei cani. Ho pensato che non li potevo lasciare in quello stato. Allora mi sono messo a lavorare, a faticare e a ricostruire questa benedetta tettoia. Beh, sai che c'è? Ho pensato che non ne vale la pena. Tu, proprio tu, che stai pensando di farla finita, beh, non ne vale la pena. Io non ho più nulla, ho solo debiti che mai riuscirò ad onorare. Ma ho la cosa più importante, la mia vita, la mia famiglia, i miei cani. Ho la casa ipotecata, bene, si fottono. Ho la macchina ipotecata, bene, si fottono. Ho solo debiti, non per causa nostra, bene, si fottono. Continua. Noi non abbiamo mai evaso, mai fatto fatture false, mai eluso, mai omesso di versare quanto dovevamo. Loro, proprio loro, non ci pagano e poi chiedono praticamente il doppio di quanto avremmo dovuto dare. E lo fanno con arroganza, con cattiveria o con sufficienza quando va bene. E quando chiediamo i nostri soldi ci dicono che per ora non ci sono. E ora ci reinventeremo, ma state tranquilli che abbiamo imparato la lezione, sapremo come comportarci, abbiamo ben chiaro chi sia il nemico. Salve, mi chiamo Silvia, ho 43 anni, sono un perito informatico, nel 2000 ho aperto un'attività, nel 2009 la situazione era ancora positiva e avevo un investimento con un debito di 50.000 euro. Dopo un anno di attività che mi ha portato i suoi frutti, le pubbliche amministrazioni hanno tolto i finanziamenti. La situazione a metà del 2011 non era più sostenibile. Ho deciso di licenziare tutti i dipendenti, chiudere la sede e cercare di rientrare con le banche. In quel momento tragico ho rischiato di perdere la mia famiglia, poiché il mio compagno mi ha visto sparire dentro un vortice di depressione, ansia, stress. Mi ha aiutata lui ed insieme a lui Michela, la nostra figlia di 3 anni. Mi hanno aiutato i miei genitori che mi hanno finanziato una parte del debito per non rischiare di perdere la casa nella quale vivo. A 43 anni mi ritrovo con debiti con le banche, debiti con i miei genitori e debiti verso amici che mi hanno prestato denaro. Guido, questa è la situazione che sta arrivando. Io non ti chiedo un commento perché domani avremo una giornata dedicata a questo. Volevo solo chiudere in una parola con una lettera che leggemmo 5 giorni fa, quella in cui ricordava che il vero valore era l'amore che le donne, tutte le donne di questi imprenditori, avevano dimostrato, figlie, mamme, nonne, avevano dimostrato nei loro confronti l'amore che queste donne, nonostante tutto, ci danno. Così chiudeva l'ascoltatore. Domani Focus Economia dalle 16 in poi. Grazie Guido Gentili, per ora da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.